ricordate quel tema in cui vi avevo proposto di dar sempre ragione a Dio benedetto? Dargli sempre ragione quando avete salute da vendere e quando ci sono problemi, quando gli affari vanno lisci e quando gli affari si complicano, quando il tempo sulla vostra casa è limpido e quando ci sono delle nubi nere. Date sempre ragione. Per dare ragione a Dio bisogna chiudere gli occhi. Un esempio, un paragone. Provate voi a fissare il sole nel suo meriggio, quando splende, stupendo. Voi dovete chiudere gli occhi. Eppure guardate il sole e lo guardate a occhi chiusi. E non è che per questo il sole non ci sia. Il sole non lo sperimentiate, lo sperimentate benissimo, ma gli occhi sono chiusi perché abbacinati da quello splendore. Però voi sentite che il sole c'è e lo sperimentate a occhi chiusi. Voi in questi giorni avete sperimentato la presenza di Dio, ma i vostri occhi di carne non l'hanno visto. Eppure così a occhi chiusi l'avete sentito. E c'è qualcuno che l'ha sentito molto forte nella sua stanzetta da letto. Qualcuno l'ha sentito molto forte passeggiando nel giardino sottostante vicino a quell'immagine di Maria. Qualcuno l'ha sentita la presenza di Dio mentre si confessava, altri facendo la comunione, altri restando inchiodati a quel banco per delle ore, a occhi chiusi. Il sole in pieno meriggio ti chiede di chiudere gli occhi, altrimenti ti abbacina, è troppo forte la sua luce. E la luce del sole è un niente a confronto di quella luce che è di Dio, che ha acceso nel firmamento quel sole e incontabili stelle. Fidiamoci di Dio a occhi chiusi. La vita presenta il bello e il brutto, presenta il dritto e il rovescio. Ognuno di noi ha un bagaglio di problemi, piccoli, grandi, preoccupazioni, fastidi, noie, dispiaceri, gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Tutto questo è disposto dalla provvidenza di Dio. Fidiamoci di Dio a occhi chiusi. Diamogli ragione. Signore, se non mi fido di te, di chi dovrei fidarmi? Tu mi hai creato. Io non esistevo e tu esistevi nella tua luce infinita, nel tuo regno d'eternità, e pensavi a me. Ti sei mai dimenticato di me? Ti potrai mai dimenticare di me? Di chi fidarmi se non mi fido di te? Le verità della fede, il nostro credo recitato tutte le mattine, quello in breve e quello che ricetteremo tra poco per disteso, le verità della fede vanno credute a occhi chiusi, perché ogni verità della fede è molto più splendente che il sole e tutte le stelle messe insieme. Noi perderemmo la vista, noi rimarremo stupiti, quelli che sono gratificati dell'apparizione della Madonna in quei momenti sono come non avessero il corpo. E qualche scienziato ha voluto fare tutti gli esperimenti, toccarli quei veggenti, scuoterli come non avessero il corpo, come se non sentissero nulla, assorbiti da ciò che noi chiamiamo trascendenza, soprannaturalità, mistero di Dio. Ebbene, tutte le verità della fede vanno prese a occhi chiusi. Noi rimarremmo abbacinati, incantati. Non saremmo capaci di resistere ad un'esperienza che supera infinite volte l'esperienza del sole e di tutte le stelle messe insieme in uno.